soir. Nous sommes à casa. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde à casa. Vagabondo diciottenne a Venezia maledetta. Pazzo di un toscano con la cravatta stretta. Gli occhi già bruciati in fantasie africane. Sei venuto qui a sputare le tue malattie italiane. Parigi non è fredda, ha per tutti un'ora. Buoni tuoi disegni, amaro fino in gola. Predichi per strada due barboni da incantare. Ma è lampione della Senna che ti sta ad ascoltare. Li vedi nei caffè ma son lontani. Loro sono un nome, tu sei Modigliani. Ti comprano il colore per un pastis. Loro sono un nome, tu sei Modi. Tu sei Modi. Tu sei Modi. Picasso lo spagnolo sta proprio lì vicino. Vedi gente venire, toccarlo, andarsene al mattino. No, tu non fai scuola, torni solo a quattro zampe, vomitando il vino su quelle magre gambe. Li vedi nei caffè ma son lontani. Loro sono un nome, tu sei Modigliani. Ti comprano il colore per un pastis. Loro sono un nome, tu sei Modi. Tu è a Modi. Tu è a Modi. Hanno capito il 15-18, il fango recintato, le cosce di Alma Isa, l'algerina sul divano, con lei qualche ufficiale pagando è stato uomo. Li vedi nei caffè ma son lontani. Loro sono un nome, tu sei Modigliani. L'anima, quella che non sai di avere. Ti comprano il colore per un pastis. Loro sono un nome, tu sei Modigliani.